C'è qualcuno? Vabbè, tu sei? Che avanti? Oh, ciao Robè, buonasera. Vabbè, a tu. Ebbene, allora, tutto a posto? Sto facendo roba qua in stazione, adesso sto risalvando qualcosa, adesso la treccia avrei svegliato anche duro. Ecco. Subito le scatole. Beh, stai attento, non si sentiva la voce, si sentiva un rumore forte di alternata, ma stai molto attento anche tu. Lo sai che cos'è, il microfono è. Insomma, siccome con il microfono passano le tensioni, gli 8 volt, stai attento che non faccia qualche rientro e ci buci la, tu butti la radio. No, già sto attento, già lo guardo il coso, il lago, se si muove o no, ma me lo fa controllare questo cavolo di coso. C'è qualcosa che non va, cioè. Me lo devo far controllare a qualcuno. E fallo vedere, ma è una fesseria, eh. Aspetta un secondo, tanto che devo attaccare una cosa, me ne sono più dimenticato. Scusami un attimo. Fai. Avanti, che fruscia. Quello lo fai, con il culo lo fai, ti guadagni il pane, guglione. Rieccomi qua, ok. Ah, mamma, è la tua bernacchia. Chi? È che lo conosci. Sì, ma già ho capito dal segnale, dai. Di nuovo con questa cosa, dai, lasciamo divertire, dove ti dica. Non si è sentito nessuno, stavo parlando stamattina con Gianfranco, stavamo facendo delle prove sul 18, poi lui è andato al telefono, poi sono andato al telefono, io sono stato quasi mezz'ora al telefono, poi non ci siamo più sentiti, ho provato a richiamare prima sul 18, poi siamo andati sul 10, invece niente. Ah, capa, boh, non lo so, no. Capa. Ha fatto l'acqua, una e uno, una e due stazionari, dai, quando gira. Non l'ha fatto nulla. Ma non ripeto, è tutto fatto bene, Antu. Bello sigillato, non deve succedere niente. Cappa, è più quando piove, ma l'umidità è sempre a quella cosa. Guarda, non gli ho fatto niente di sigillante, gli ho messo il grasso di vasellina e boh, in tutto, in giro tutta l'antenna. Io la volta che, come avevo fatto quelli di PL difettosi, sono salito sul tetto, ho guardato dentro, era lucido quando non giocava il dottor Lambaravan, capito? Dentro era lucido. Arriva un imbocco di impiastri, secondo me quello ristagna l'acqua. Invece tu lo devi lasciare così, gli metti il grasso di vasellina, bella abbondante sopra, e non ti dati problemi. Sì, tutte le parti dove ci sono giunzioni nell'antenna, io l'avanto, ma prima di piazzarla l'ho riempita di grasso di vasellina, in modo che un domani se la devo smontare non la sfascio, non rompo niente, poi tutto sigillato, prima con l'altro isolante e poi col vulcanizzante. Idem e tutte le altre parti dove c'è il PL, in modo che poi il cavo gli ho fatto un giro in modo che l'acqua faccia non ristagni, dai, ho fatto un bel lavoro. Speriamo che duri. L'unica cosa che non ho fatto è le aggiunture. Vabbè, pazienza. L'ho fatto male. Già rimane così. Già non vado più a sopra, se non ci siano mai problemi non ci salgo più sopra. Comunque io gli ho fatto questo lavoro qua, non gli ho messo né nastro né niente. L'ho riempita di grasso. Beh, io qualche mese fa, quando c'era quel PL difettoso, l'ho dovuto trasgrassare, sono cazzato da sopra. Ho aperto il PL, dentro era lucido come il primo giorno che l'ho messo. Aspetta che c'è Claudio, vai Claudio. Bisogna isolare le antenne, buonasera. No, io questa che ho non ha bisogno di vulcanizzare niente, proprio niente, perché c'è il buco sopra in punta e scende l'acqua dentro il tubo e va fuori, non è come la mantova che va dentro il circuito del PL, assolutamente. Anche questa va bene. No, eravamo sul 16, mi pare, sul 17 con Gianfranco. Gianfranco si è arrivato. Buonasera comunque a tutti. Io ci busco una gazzarella nel UBL. Sì, buonasera a tutti. Cosa era una gazzarella e busco l'UBL? E infatti la mantova avevo proprio una gazzarella, se non è vulcanizzata. Ma in questa, nella città, non ci vuole proprio niente. Io butto la tapparetta sopra il coso, là, sopra il cavo, e l'UBL è dentro la gazzarella con la baletta. La mia è così, non ha il PL così come la mantova, cioè scende l'acqua, scende, se dovesse entrare che è il tappo su, se dovesse entrare comunque scorre nel tubo, non lo tocca dove c'è il PL, capito? Oh, claro, io levano la bagu a chi, quando piove, no? Ho messo un flessibile dal tubo, dall'antenna, quando piove mi carica lo scaldabagno bagno e l'acqua non è pago. Ma pensavo di farti la luce, non voleva piovana. No, fredda no, ma lo scaldabagno bagno, comunque l'acqua piovana comunque, senza problemi. Buonasera a tutti comunque, dai, che è per. Buonasera Lu. Ciao Antonio, Roberto, Gianfranco, Claudio e poi non so, avanti Cla. Ti saluta Marina, vieni, salutalo tu. Scusa, vieni. Aspetta, Antonio. Ciao Antonio, un bacio a Sara. Cappa, ti saluta anche Sara, ti saluta. Ma ci vieni stasera? Mi ragazzi, me lo gancarendi. Poi adesso mi sono fatto la luce bollente, devo dire bollente, adesso sto bene. Vieni in campagna? Sì, da suoceri. A pranzo lì? No. E allora, a pranzo lì, ogni avredo in vita, vabbè, in campagna purtroppo lì. Allora lì d'estate, sai cosa è? Che c'è fresco. C'è freddo, tu anche se sono 40 gradi fuori, te ne vai lì in soggiorno, ti metti nel divano e è fresca con la casa, non c'è bisogno del condizionatore. In cucina un po' meno. Insomma, questa è l'estate favola. L'inverno è fredda, devi usare il riscaldamento, se no ti cantare già di zona. Ciao Maria, buonasera, ben sentita. Avanti, Roberto, fai girare. Aspetta che saluto Gianfranco. Gianfranco, stamattina tu hai detto sono al telefono. Poi nel contemporanea, quando sei andato al telefono tu, ho ricevuto due telefonate, sono stato mezz'ora al telefono, ho richiamato. Poi finalmente non ci siamo scontrati, rintracciati. Ho detto anche a Claudio, speriamo che l'abbia sentito. Poi sono ritornato sul 10, sono stato un quarto da 20 minuti e ho chiamato un paio di volte, ma non c'eri. Avanti a te Gianfranco. Sì, buonasera a tutti ancora. Sì, infatti me ne sono accorto, ha ricevuto 50 telefonate e poi io sono dovuto andare via. Come cazzo nel servizio, ho quell'affare, forse l'ho risolto, ho guardato un disciplinare inglese e forse ho capito dove sta il problema della chiavetta, quindi può darsi che si risolva. Aspettate un attimo, cosa devi dire? No, siccome sono stata maleducata poco fa, un saluto a tutti e buona serata, perché ora mi ritiro nelle mie stanze. Un saluto a tutti, buona serata. Scusate, che mi sono permesso, avanti Cla. Ah, Luca. Cosa Cla? È quello che stava parlando così, Luca. Sto in mitra alla marina. Ti ha scusato a tutti e vi saluta a tutti. Che lei se ne rientra nelle sue stanze. Ah, va bene, è giusto così, la verità, no, per ascoltare già le due noi. Ciao Marina, va bene. Non ci stare alla radio, le sue già le due, diciamo, avanti a tutti. Cappa, vai, saluta Marina. Adesso, magari si mette a fare cosa adesso, è sempre in vendita. Cioè, mica ti saluta Sara o Cla. Ciao Sara, buonasera anche a te. A tu. Ehi, dimmi. Ma lei me la presenti a Sara? Ah, chi la sa di non vera mi pare. Ma Costantino è ieri. Da Costantino eri ieri. Ehi, ma ce ne siamo andati presto, ce ne siamo andati, perché Sara non stava tanto bene. Io dovete venire lì a Sardegna un sabato. Ho capito, la riprendete, scusate il ping pong, vai Roberto. Sì, allora stavo guardando il video, cazzo, di quello che sta succedendo a Cagliari, non l'avete visto? No, che cosa? Roba di alluvione che c'è, c'era l'autobus con i passeggeri, l'ha mandato un amico, con i passeggeri dentro l'autobus, è arrivata l'acqua ai sedili, di colpo, in un secondo sono passati in questa fuga, c'era l'acqua ai sedili, quelli non è possibile, pensavo che l'autobus fosse chiuso, poi come sono usciti si è svuotato in un attimo, tutta via Roma la ragata, ma un metro d'acqua, non 10 centimetri. Invece non arrivano anche qua, e non mi nascondo che sono preoccupato anche perché io la piana dov'è, cioè la vallata, porca puttana. Guardate il video, mi viene messo le mani, mi sto domando qua, timone le mani in capo. Le bombe d'acqua fanno sempre paura, cazzo, portano in campagna così. Che palle che. Ma che fa? Sì. C'è stato un ciclone blast con temporali violenti e un'alluvione. Speriamo che non arrivi qua, perché non so se sta salendo o scendendo questa cosa. No, già è miglioramento, dai, da domani sta a migliorare, martedì è buono. Speriamo. Sembra che ci sia morto anche. Speriamo bene, cavolo. Mercoledì era il temporale qua. Due giorni che piove, ma piove leggero. Mi è arrivato il video, aspetta che me lo guardo con mia moglie un attimo, bianco per me, riprendendo. Kappa, è brutto quando è così, cavolo. Uia, dicendo un video. Ah, me lo sono quasi trovato. Ecco qua. Ora glielo mando. Già fatto bene. Tutto bene, Antu. Tutto bene, niente in ordine, come sempre. Già ho fatto lavoro al monitor, ho messo una staffa di lusso, cacchio, me lo giro come voglio, ma lo passo di mezzo metro il coso, anziché attaccarlo in parete che si mette sempre in verticale quel braccio, l'ho messo in orizzontale in modo che scende giù e mi guadagna 50 euro, proprio un lavoro bellissimo è uscito. Almeno non ti viene tutto il collo. No, va bene, ho due di monitor, per il momento è collegato a quello che stavo usando, quello Philips, quello di Claudio, poi c'ho l'altro, quello che ha le casse incorporate che sembra auto, anzi è un televisore, però può utilizzarci anche come monitor. Infatti. Un attimino che mi devo spostare. Eia. E beh, Claudio, mi fa il video. Se vedi altro è successo a Claudio, via Claudio, a Cagliari ti mette le mani in testa. Tutto, c'è la 331, c'è un metro di acqua. Ma è normale. Qui c'hanno la piglia da Mari, L'ha presa molto molto male, l'ha presa lui così. Cavolo. Così a Olbia, quando era successo a Olbia nel 2013, che erano morte mi pare 16 persone, mamma mia, mi aveva fatto poco, vabbè di lì c'erano delle incurie perché costruivano sotto il livello del mare, c'era mio cognato, che lui di quelli dei SAF, dei Vigili del Fuoco, che ne ha salvato un paio di persone, non ad Orbia, ma che si chiama quel paese, dove c'è vicino a Posada, non mi ricordo, con i canotti dentro nelle case, al primo piano c'era l'acqua, sino al primo piano. Nei garage dove mia sorella aveva fatto l'alluvione era entrato tutto dentro, era entrato cavolo, ci sono ancora i resti, ci sono alcuni resti, però adesso già è tutto pulito, tutto a posto. Ma lì c'era il problema della diga che poteva crollare, allora hanno aperto tutta l'acqua della diga per non farla crollare, sennò succede come il Vajon e ammazza centinaia di persone, perché di lì è molto popolata la zona di Posada, Budoni e tutto qua. Hanno dovuto scaricare la diga perché si è riempita troppo e non era collaudata per quei carichi. È andata tutto nella campagna, ma cosa ha fatto di danno? Ma come si chiama quel paese? Vicino a Posada, che c'è la diga, e dopo ce lo dice Claudio, non me lo ricordo. Ma c'era più di 2 metri di acqua in tutto il paese, non dire in un pezzettino giù per dire il centro storico, proprio tutto il paese è allagato con l'acqua, fiumi di acqua. Ha fatto vedere le foto mio cognato, mamma mia, lì era morta un po' di gente, puzza. C'è il mare un vogo, ma porureva già, non scherza. Se la poteva conservare questa acquazzone quando c'era il coso, gli incendi, così avevano facilitato il lavoro di vigile del fuoco. Il problema è normale, quando succedono tutti questi incendi, questi calori generati, tutta l'acqua di mare evapora, si genera tanto calore e si evapora, per cui da qualche parte e in qualche momento deve scaricarla, perché così è logico, quando si incontrano le perturbazioni poi aria fredda con aria calda ne va una montagna di acqua. Vediamo se Claudio è rientrato. Quest'anno l'ha presa a piovere molto, l'ha presa. E tutti non effendieva, te levava. Via, vamos. Vai Luca, non c'è, Gianfra, sei rientrato? Sì, sono rientrato adesso. E cosa poteva essere quel problema con la specie di chiavetta, Gianfra? Ha un mancato riconoscimento del driver, come al solito. Diceva che ne installava, ma non l'ha installato. Perché no, cosa sta facendo? Compito. Perché non riceve il drive, insomma roba di PC. Avanti il break, che avanti, sembrava la voce di Saverio. Cosa ti volevo dire? Ma ha fatto l'aggiornamento Windows 10, Gianfra, c'è stato più di un'ora e mezza. Roba appena installato Windows 10, è normale che faccia aggiornamenti, Cazzo, io pensavo un quarto d'ora, 20 minuti. Ti sto dicendo, è stato più di un'ora in una posizione, poi ha fatto il riavvio, è stato un'altra mezz'ora facendo il resto. Vabbè Roba, li fa gli aggiornamenti. Cos'era? Uno di che cosa? Uno di 5, uno di 10, uno di 20, uno di 30, cos'era? Non lo so, partiva, allora è stato almeno 20 minuti al 0% di aggiornamento, poi di colpo piano piano 1, 2, 3, è arrivato al 100%, ci ha messo più di un'ora, dopodiché si è riavviato, è stata un'altra mezz'ora facendo il resto. Ho capito, no. Meglio così. Andà bene, interessante che funzioni Robert, ripeto, il resto è tutto a posto, è tutto, come si dice, revisionato, è perfetto. Quella marrone però non è acqua piovana o ha calentato qualche fiume, qualcosa lì, capito? Quella del Tran sì, acqua piovana, quella che c'è in città, ma lì dove c'è quel ponte, quando c'è nel ponte c'è qualche fiume, quella è acqua di fiume, vedi che è tutto fango. Ma non siamo andati a quella di Via Roma a Cagliari, Via Roma non è fiume, no, dentro città. Sì, già l'ho vista quella vabbè può essere una bomba d'acqua, è successo anche a Sorso. Però quell'altra madonna, quella è tutto fango, poi c'è un ponte, quindi sicuramente ha caricato qualche fiume lì, bisogna vedere che cosa c'è, che zona è. Scappa, cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, me l'ho dimenticato, vai Gianfra. È tutto così lì, anche su il regagno, di fiumiciattoli, lo fa così, è ovvio che si allaga. È normale, perché non puliscono mai niente, i margini, tutto. E io ho paura che arrivi anche qua, comunque l'ha detto, domani, cioè mercoledì c'è temporale grosso in arrivo, quindi sicuramente questa perturbazione passerà anche al nord di Sardegna. Spero di no, perché fa danno, Mi preoccupa più la... che sia tutto a posto, capito? Adesso c'è la vallata qua, cazzo, io sono leggermente sotto. E se va la leva da sopra, magata nella finale, magata. Se vuoi ti presto una barca. Non ti vuoi balle, cazzo. Speriamo di non essermi pentito di aver fatto questo investimento. Dai, claro, che hai fatto un torno all'otto, adesso a Bisì, che stai benissimo, tranquillo. Poi l'acqua, già sei in alto, al limite ne scende a parte bassa di Sassa, rimedi da Antone, da Antonio, non varrei Chivi. No, vabbè, ho paura sempre per la vallata che c'è, capito? Lì può essere pericoloso, se piove tanto, già ce la fa a defluire verso giù, però cazzo non è via in pieno. Non ti tocca, non tocca Danilo qua, che è dall'altra parte della torre, e lui diciamo per un pezzettino è anche più in basso del livello della strada, e ne ha fatto di acqua, ne ha visto, lui ci abita da tanti anni di lì, grazie a Dio non è successo niente. Il problema era dalla parte dove ti ho detto di mio cugino, di lì sì che gli ha fatto danno, di lì ne è crollata, ha frenato un pezzo di montagna, di collina, dietro, come si chiama? San Simplicio, di lì gli ha fatto un danno che non hai idea di cosa. Poi adesso già ha fatto un muro di contenimento, scuri eccetera, ma acqua, io sono andato, sembravi in una piscina, c'era tutto il piano basso, era completamente allagato, il seminterrato era coperto, non c'era più niente. Ok, già frate. Ma non ti spaventare Claudio, tanto sono arrivato a destra, arrivato a sinistra. Se si pensa così non si fa più niente. Ci sono tanti pericoli, ci dobbiamo abituare oramai. Bagasso d'acqua a Castellure, minchia. Oh, ma mi avete chiamato, mi sono spostato un attimo. No, lui, stavamo guardando l'acqua che sta facendo a Castello, a Cagliari, minchia. Andiamo dove andremo? È vero. Non lo so. Oh, andiamo a fare, per carità, però c'è sempre la paura, capito? Se ne stanno sentendo con questi temporali, queste cose di tutti i colori, quindi quando sei così, sì, Danilo è di fronte a me, vabbè, già lo so, il fratello, lui rimane però leggermente più su, però poi c'è la casa giù, lo stesso, come me, quindi va bene, dai, non pensiamo al peggio, pensiamo alle cose belle. Avanti Antonio, riprendi tu, cambio. Comunque io c'ho la barca mia in officina, c'è il gommone di Danilo e poi abbiamo un altro canotto, un 3,50 m. Per qualunque necessità già posso venire a prendere. No, faccio una telefonata direttamente a tuo cognato e vengono loro a prendermi. Hanno preso il gommone nuovo di quelli proprio fluviali, non so dove l'hanno fatto arrivare, se no vengono i sommofratturi se sei sotto immerso. Se sono sotto immerso già sono a terra, l'importante non è bidare che carreggio a capo. Vai già, già ti salva Filippo, non ti preoccupare. Cazzo coglione di cane, teme l'acqua, teme cosa ti salva, invece hai avuto un Labrador, un Terranova, allora va bene, capito? Ma lui la teme l'acqua, se non te lo portano in spiaggia d'inverno, veramente non lo porti, io lo porto nel genere, si avvicina, come vede che arriva l'acqua, pum, fuggi. E poi quando lo porto a mare si addormenta, invece, capito? Quando lo lavi le piace, invece l'acqua così la teme, figurati tu. Hola chicos, io vi saluto, dai, ci sentiamo. E mi c'è nella magna? No, sono ancora presto. Là sto andando, dall'amico. Ah, va bene, va bene. Ciao Anto, buona serata, saluti a Sara. Avanti Roberto o Luca, non so chi tocca. Ciao Antonella, ci sentiamo, buon divertimento. Vai Luca, ogni tanto scompare, vai Gianfra. Ciao a tu, buona serata. Alle prossime. Allora, Roberto, che se fa? Oh, dimmelo tu cosa vuoi fare. E se vuoi te ne installo quell'affare, così almeno ce lo togliamo da mezzo alle scatole questo problema. Sperando che funzioni. punto. Allora, cosa facciamo? Sul 18 andiamo, cosa dici? Così non rompiamo le scatole qua, tanto sono quelle cose logorrui che non interessano a nessuno. E tanto già abbastanza veloce dovrebbe essere, così aspetta che accendo il computer, il monitor. Hai visto Cagliari e Cla comunque? Sì, l'ho visto. L'ha detto, sud Sardegna, centro Sardegna, tutta la parte orientale, noi ancora siamo un po' esonerati, ma penso che o da domani o da dopodomani arrivi anche qua una bella passata, non come questi giorni che sta pisciando. Ma credo che sia già passato, perché ho visto da domani è in miglioramento, e mercoledì è buono, dai, sino a mercoledì è buono, poi non ho visto le altre previsioni. Come mercoledì mi dà temporale, vabbè, comunque tempo suo, però quando fa così fa danno, che fa un sacco di danno. Va bene, beh, se dovete ascoltare non c'è problema, tanto io sono qua in ascolto e già ci sentiamo dopo. Scusate, ma allora già fra, ci sei, 18? Sì, 18. 18 va bene, tanto là, guarda, quando succedono queste cose sta tranquillo, non ti avverte, sono cose veloci che arrivano, sono le peggiori, nel giro di un'ora fa un casino e magari tu sei convinto che la giornata sia bella. Ma infatti è quello che mi gira un po' le balle. Va bene, dai, andate, già sono qua io. A dopo, 18 allora già fra. Sì, 18. Se ci vuoi siamo lì. Io non vi voglio disturbare, fate quello che dovete fare, anche io sono qua. Allora, com'è, che si dice? Che si dice? Si dice quel che si dice, dove ti dice, non lo so. Non lo saccio. Ma morì. No, è andato via Antonio, sta mandando l'amico, non so se sai dove sta andando. Ah, non ho capito. Positivo e poi Roger, bene, sta andando, sì, ha preso un po' l'acqua questa antenna, non c'ho manco l'attisolante, il PL, nulla. Sì, sempre con la pirvella attaccata, sì, ciao, buonasera a tutti. Allora, Mucco. E allora? E allora, siamo qua al calduccio cercando di ammazzare la serata. Fate bene, io mi sono appeso dal divano e mi piace vedere se c'è qualcuno in radio e ho sentito a voi. Tu ti sei appeso dal divano, io mi sono guidato la vita. No, io stavo divanando, dopo pranzo ho deciso di divanare un pochino. Sì, anch'io stavo divanando, però poi mi sono rotto le palle e sono messo anche in cameretta qua. Che l'altra volta avevo sbagliato, c'era un mucchio che mette ai piedi. Questa volta mi sono messo il lettino singolo, mi sdraio, quando ne ho voglia, invece di stare sempre bruciato. Andare. Che qua, chi è? Aspetta un attimino, là. Come si sta comportando? Questo qua è il K, no? No, questo è l'altro. Addirittura hai la stessa modulazione, cioè. Magari. Noi siamo canassè, ancora vai più acuta, più spinta, però questa già è bella, sì, non c'è problema. Vabbè, questo è più 5, vedi? È il confronto che ti stavo dicendo ieri. Va bene, però, non è un problema. Io sto usando il 430, ho scelto il microfono, non so se sta andando bene, ma mi ha detto che già era regolato bene. Di solito uso l'altro K. Ah, vanno bene i microfoni. Io ho sempre detto che l'MB più 5 è il più 4, qualità prezzo è un ottimo microfono, perché va bene a tutte le parti, capito? Io ho anche l'altro, ti ricordi il più 4? L'avevi dato tu tramite un'altra persona. Che però c'è una accoppiata con un'altra radio e vabbè, non la sto utilizzando qua, è nell'altro appartamentino, chiamiamolo così, tra virgolette. No, va bene, ti va bene, mi dica la grande, non vuoi che andare. Aspetta che lo facciamo scaldare a questo, però si scalda mano a mano che schiaccio la portante, aspetta. Devo fare così per farlo scaldare. Perché te la c'è qualche condensatore in perdita, vai tranquillo, l'avevo fatto anche il mio. No, aspetta. No, sono... Ecco qua. Sono nuovi, caro, sono nuovi. Quanto è adesso? Guarda un pochino, segnare se cambia qualcosa. Non riesco a ricordare cosa c'è il rumore. Sta salendo. Sì, guarda un attimino. Così al massimo, ecco. Guarda un pochino. Vediamo se tenendo premuto ancora sta scaldando. Prova, guarda un po'. 9,25 sì, al massimo. 9,25 compiti quasi a 30. Liscio sì, 9,10. No, liscio ancora non ci sono perché non ho attaccato. Così è attaccato, Però adesso magari è sceso un pochino, perché quando va che fa passaggi lunghi magari tende a salire di più. No, ecco, liscio nel senso quando usi la radio normale, K, sei 9 più 10, così sei 9,25, con picchi a 9,27, 28, quasi 30, quindi vedi tu. Sta andando, sta svolgendo il suo lavoro, Penso proprio di sì, cosa dici tu? Alla grande sta andando benissimo, considerando il fatto dove sono io, quindi va benissimo, ottimo per la truppa. Andare, beh, un po' di alternata magari senti ora, sta andando. Non sento niente, la modulazione è buona, tranquilla, non c'è problema. Guarda, adesso si è abbassato da solo, vedi, guarda quanto adesso. Perché lui fa il picco massimo quando inizia a modulare, adesso è un po' più basso. E manca tutti, va bene, migliora anche la radio, 9,20 semi, non è che ha perso 10 punti in più del normale, va bene. Però la radio è bella, molto più bella di quando è a manettone, appena appena la strozza, però è sempre bella, ma così è ancora più bella. Sì, però per scaldare proprio, devo dare qualche colpo di portante, non so, la valvola pilota, la devo eccitare un po' di più che... Beh, non mi conosco, qualche modifichetta non si può fare, no? Non c'è la pilota magari da mettere diversa, da fare qualche modifica sulla nodica, né a lui richiede. A me queste cose una volta me l'aveva fatto Carlo di Chiaramonti, capito? Però lì se sbagli paghi, ci deve essere uno bravo che sappia manovrare le valvole, se no ti serve in beggia. Vabbè, no. Su quel fatto lì non è, quanto metto lui non è molto informato, dai. Vabbè, ma già va bene così, dai. No, me ne ha regalate un paio anche addirittura, le stesse, o forse 911 se non mi sbaglio, non mi ricordo adesso, ce le ho conservate. Cosa monta, le L509 o le PL519? Le 519, però mi ha dato le 509 lui, ma sono identiche, sono leggermente più piccole, però sfruttano uguale. Ma le PL519 comprano di più. Io ho fatto la prova perché anch'io non capivo qual era la differenza, dicevo ma i piedini sono uguali, la tensione è uguale, tutto uguale, poi alla fine evidentemente il filamento è più grosso, quello che era 519, capito? Solo quello era il problema, e andava un centinaio di watt in più, li tirava fuori anche il mio, era 5 valvole, io ce l'ho dentro l'armadio, non l'ho mai più usato perché una volta mi ha spellato, mi ha passato gli utili della rivita, allora l'ho conservato ed è della CTE, International CTE, grosso, bello robusto, mi aveva regalato in un certo modo, ce l'ho, è un regalo che mi hanno fatto, non ho mai venduto, mai, ma è una bella bestia. Sì, e perché questo piccolo, questo è il Galaxy 1000. Lo so, già lo conosco, Alfredo Panera la chiamava Bartolomeo TCL, no, questo è fatto a biella, se te lo vedi è uguale, Dio, simile al TL 922, sembra la mia della prima, è tutto grigio, c'ha lo strumento che addirittura fa anche da correttore d'antenna, c'ha proprio la correttore d'antenna, mi si riesco a farti una foto, devo spostare un po' il roba dentro la mano e te lo faccio. Cioè pomelloni grandi, neri, proprio professionali in batterite, ma bello, è fatto veramente molto molto bene. Ed è bella, si chiama G27, Marco mi ha detto che era un buon lineare, G27B, fatto a biella. L'ho usato pochissime volte, poi l'avevo attaccato, addirittura c'ha 50 watt d'ingresso. 50 watt d'ingresso, non 10 watt, 50 watt d'ingresso, quindi un semiprofessionale. Infatti io col K l'avevo usato, una volta col K le davo 30 watt, 25 watt di portante, poi col picco andava a 50, mi dava intorno ai 700-800 watt. Sì, va bene, a voglia. No, ma non ho intenzione di mettere niente, perché non ho voglia di... Qua abbiamo poi, io e il mio vicino abbiamo fatto un impianto centralizzato a parte, non voglio rompere le palle a nessuno, stai scherzando. Assolutamente no, eppure a corrente la baguio. Capito, mi hai? A meno che non mi colleghi, forse lo posso usare, però che mi collega il mio vicino, ma va bene. va bene, poi ti dirà, ma quanto sei pagato di luce tu? Ma io abbastanza, e tu? No, vabbè, io ce l'ho così, giusto per spizio, sabato, domenica lo metto in azione, una volta a settimana me lo accendo. Ma è bella, bella modulazione, bel segnale, va bene, sì, ottimo veramente. Non so se ogni volta riesce a vedere. No, vabbè, una volta che è accordato. Ma lascia stare così, senza dire il gurgo, già va bene. Sei 9.10, dice, sei 9.20, non picchia 9.25, sei quasi 15 dB in più, cosa vuoi? No, vabbè, ma ti ripeto, sale di più se tu dai ogni tanto qualche colpo importante per farlo eccitare, capito? Va bene, così deve eccitare, lascia stare, meglio non si ecciti troppo. Il cura di vicino di casa, a quello che c'è un baracchino vicino, non so, mi sta chiamando Anna, più secondo so. Sì, dai, così faccio alzare anche il microfono. Ciao Tino. Ciao Giulio, un abbraccio. Ricambiato T. Ascolta, per curiosità, quant'era la bomba, di quanto è la carica? Così, poi ti seguo perché ti sto facendo questa domanda. Guarda, adesso me ne sta segnando circa, allora, perché a strumento mi dà una cosa, all'altro me ne segna un'altra, qua mi sta dando circa 300. Ok, una bomba. Intanto alla radio con antenna 925, però ti volevo dire un'altra cosa. Io in questo tavolino ho un altro baracchino ed è senza l'antenna. Lo sai che ti sento lì con la cuffia, mi sono messo la cuffia perché io uso quell'altro baracchino, lo uso per aggiustarmi la radio di questo che sto usando adesso, no? E poi per quel momento, quando tu hai parlato, ti sentivo in quel baracchino, ti sentivo che avevo inserito la cuffia ed è senza l'antenna quello. Tanto per dartelo l'idea, era una potenza. Cappa. Vabbè, no. Guarda, fa da 250 quasi a 400 di picco, poi se non eccito da intorno ai 600-700 watt, ma devi stare così, mi guarda, aspetta, ogni tanto sta salendo, guarda, adesso sono già a 500, c'è qualcosa che magari vorrà registrato, non è che... Ecco qua siamo saliti a 550, adesso vediamo la regolata. siamo quasi a 600. Il problema è che devi stare sempre a schiacciare la portante, Giulio. Guarda, adesso siamo a 600 pini e sta continuando a salire. 6,50. Cioè le campanelline anche a casa. Siamo quasi a 700. 700 pieni ora, guarda giù, così è. Ok. Ok. Sì, va benissimo, è una bomba veramente. Te sto dicendo, ti sento nel nostro baracchino che è senza antenna, proprio niente, nessuna antenna. Perché lo utilizzo con la cuffia, quello, allora mi metto la cuffia quando devo aggiustarmi la radio di quello che sto usando adesso, allora mi regolo la chiarezza della radio e io stavo facendo quello e ti ho sentito l'altro nel baracchino senza antenna, una bomba. Vabbè, poi ho sentito anche stasera prima di incominciare questo, prima di che tu entrassi, ho sentito anche il fischio eccetera eccetera, dove la bomba, anzi mi avrei anche sentito perché ti ho detto un attimo per i culi. sì, vedi adesso sei sceso giù, adesso siamo a 300, beh, quando lo lascio un po' in fan bike, giustamente lui ha la ventola di raffreddamento, quindi giustamente se ne scende. Certo che sì, le valvole, se tu lo metti in stand-by le valvole si raffreddano, è ovvio che non possono rendere, ma è normale, no? Quello è normalissimo, è ovvio. Va bene lo stesso, vediamo se ha tenuto l'accordo. L'accordo l'ha tenuto comunque. Sì, ma guarda che tutti i passaggi che hai fatto, anche quando sei arrivato a 700, la radio era sempre bellissima, no, non c'era nessuna inclinazione, è proprio perfetta, sempre bella, bella, pulita, chiara. Sì, però giù ho notato, adesso vabbè, tempo fa ho fatto un passaggio con Eugenio a Porto Torres, che l'ho fatto un pochino più lungo, sempre senza stare lì a accordare, e mi ha detto, guarda, nell'ultimo passaggio, ma forse perché mi sono prolungato un pochino più del dovuto, nell'ultimo passaggio la radio stava andando a comprimersi, dopodiché l'ho nuovamente accordata e è andata a buon fine, diciamo, adesso per dire, sono col mic schiacciato già da qualche secondo, è salito e devo accordare. Sì, già ci metto poco, non è che... però... No, è sempre buona. La radio è sempre buona, Tino, non c'è problema, veramente. Forse nel passaggio lungo, perché magari non ho ascoltato per il microfono. E allora per fare quel difetto che hai detto. Però così, se vabbè, fai passaggi corti e dunque va benissimo. Ecco qua, questa è l'altra, vabbè, io la conosci. Il microfono, come si dice, un po' non lo controllare, si incanta, capito? Quindi ho girato con l'altra radio. Ok, sì, la radio è bella anche questa. Questa è molto più bassa adesso, come si... Adesso è di 9,18, una cosa così. Quello vale 50, quello. Sì, questo l'ho appena acceso, quindi... Sì, questo è il 50. Ok, ma è buono anche quello, No, adesso è sempre che te lo sto dicendo, perché si è sempre detto, perlomeno mi ricordo benissimo di questi particolari, ne abbiamo parlato diverse volte in frequenza, che tra tutti che in fondo il 50 era quello che dava meno prestazioni come qualità di radio. Invece io mi rendo conto che anche quella è abbastanza buona, Non è mai come magari il 44 o con la cosa, o con l'MC60, però la radio è buonissima ugualmente. Ma guarda, ti dirò che a me piace più del 440 come radio, c'è più radio, c'è più tutto, però come fate questa qua ne ha di meno, perché peraltro saliva molto di più. Sì, beh, quello non lo so, infatti il 50 mi sembra che arriva a 40 watt di emissione, non di più. mi ricordo che era stato costruito così, mentre 44 magari può arrivare anche a 100, e poi non è mai consigliabile utilizzarli tutti, perché si può rovinare più, si può rovinare presto anche il modulatore eccetera, è meglio tenerlo. Tanto sai cosa succede, tu che ne dai di 50 o che ne dai 100, non è che ci sia questa grande differenza di segnale, per cui per quale motivo devi sforzare troppo la radio? Ah beh sì, no vabbè, diciamo che questo è importantissimo su tutti i fatti alzati, vediamo. Sono circa 20 watt, però un watt mi dà 80-90, non di più. Sì, quello sì, appunto. Lo so, mentre invece se li metti 20-25 con 40 e metti il coso, il MacGyver a 1,5 senza il processore, ti arriva a 100, ti arriva tranquillamente, modulati, però quelli non fanno testo, perché chi fa testo è il segnale importante, non quello PEP. Quello PEP si sa, è in base anche alla qualità del microfono, per cui non è quello che conta. Sì, anche quello naturalmente è un vantaggio, senza dubbio, però la forza della radio è solo quella della portante. Beh sì, sono come radio, questa mi ha tolto delle soddisfazioni, mi piace di più del 44, per dire la verità. Poi vabbè, l'unico pecco che ha come tutti sanno è che ha i LED anziché lo smetterino. Vabbè, questione di abitudine, questione di insomma di visuale. Beh certo, ognuno ha le sue preferenze, è normale, no? Questa è una cosa più che normale, ci mancherebbe altro, però diciamo che sono, perlomeno parlando sempre della M così, della 27, sono delle radio che vanno molto molto bene, tutti i tipi di Kenwood vanno molto molto bene. Sì, ma anche il 44 mi piace, non è che il 140 idem, il 180, la tuttavia Kenwood mi piace, che mi sta piacendo anche molto l'Icon ora. Anche l'Icon, io ho sentito più volte quello che ha Luca, l'Icon, funziona molto bene, una bellissima radio, altro che forte, chiara, pulita veramente, sicché non c'è niente da invidiare al Kenwood, non ha niente da invidiare. Penso che sia anche scusa la tosse, stavo dicendo, penso che sia anche una questione di timbrica dell'uomo, oltre che del fatto del microfono eccetera, perché se uno ha la voce adatta per quel tipo di microfono esce bene con qualsiasi radio di qualsiasi marca. Sì, si conferma. Claudio, quella è andata a cambiare l'acqua d'olive. Oppure a preparare la griglia, la graticola. Lo sapevi che si ha messo la massa a terra, se l'ha fatta nella graticola? Lo sapevi questo tipo? Quindi c'è qualche scarica, è pronto a arrossire, va? Lui adesso da un po' di tempo a questa parte sta adottando questo sistema. Dice la massa a terra dell'antenna me lo sono fatta nella graticola, così almeno. No, perché quando arrostisci cosa succede? E viene meglio con l'arrosto, il discorso è quello. È furbo, guarda che è furbo. Non si attacca la carne. Non si brucia assolutamente. E vabbè. Lui sta bene lì e se ne frega, ha fatto un pennallotto, ha fatto spostandosi e andandosene così indipendente in quella zona e soprattutto senza avere problemi di condominio eccetera, ha fatto benissimo. L'unica soluzione delle persone è quella, è essere sempre indipendenti da ogni tipo di condominio eccetera. Lo so, io l'ho sempre detto, il QTH campagnolo è secondo me migliore, e poi dipende anche dalla zona in cui sei, se magari capiti in una zona bassa, come me, per dire, io sono basso, però vabbè, ti togli qualche sfizio cercando di darti un aiutino. Certo che sì, quando sei fuori così in campagna problemi non ne hai, utilizzi quello che vuoi. Oggi se tu saresti stato in città non avessi penso potuto fare quelle prove che hai fatto poco fa con quella potenza eccetera, perché probabilmente per quanto ci sia il digitale terrestre sicuramente avreste fatto danno da qualche parte. Sì, guarda, io mi ricordo 4.40 quando abitavo lì in via vicino a Gigante Buonanima, lì in via Marco Polo, quando iniziavo a pompare la notte mi sentivano anche nei citofoni, quindi dovevo utilizzare una potenza tale da poter non disturbare, capito? Però sai, poi la notte è tardi, allora iniziavo a alzare, però i citofoni erano quelli che subivano le conseguenze. Beh, sicuramente sì, perché entrano nelle medie frequenze, ovvio, quando incomincia a esserci una larghezza di almoni che si sa da qualche parte atterrano, finché entrano nei citofoni, bene o male, può anche passare, il problema è quando entrano nei TV, è quello, il discorso è quello, allora comincia a essere un po' più problematico, purtroppo è così, lo so, vabbè dai. Del resto ci sono le regole proprio per quel motivo, Tino, proprio per il fatto che utilizzando certo tipo di apparecchiature potresti dare disturbo agli altri, ma questo è studiato apposta, se no non avrebbero fatto anche certe regole, no? È vero, ma tu pensa che addirittura la prima stazione che avevo era composta da un Milan AN48 modificato con un P5 e il PV131, quindi quando scendevo lì in città disturbavo il vicinato anche nelle televisioni, quindi ho dovuto far cambiare anche qualche cavo di antenna perché era sbucciato, sai, poteva dipendere anche da quello, poi una volta cambiati non disturbavo più, però evitavo di attaccare per quel motivo lì. Sì, beh, certamente sì, beh, in effetti era così. Prima di tutto perché erano quel tipo di televisori, allora tipo cattolico, che raccoglievano qualsiasi mondezza che c'era in aria, no? Per cui, però poi hanno cambiato il sistema, ma se tu utilizzi potenze altissime è chiaro che non ci sono ostacoli, anche col digitale potresti interferire, certo, non ci sono dubbi. Prima era così e d'altronde la media frequenza di quei televisori a tubo cattolico specialmente erano poco filtrate e dunque entravano lì, poi per non considerare poi il discorso che non tutti avevano un impianto d'antenna fatto a dovere con tanto di cose, di capi come si deve, senza ossido, oppure le cose come si chiamano, non mi viene il nome adesso, quelle apparini che si mettono nell'antenna per la distribuzione, anche quello, i regolatori che ci sono, se sono arrugginiti è chiaro che portano delle interferenze, invece se tutto è in ordine, oggi come oggi, utilizzando sempre, ripeto, la potenza consentita, va benissimo anche a livello di 100 gradi, di 100 watt. Sì, ma infatti io combattevo su quello, sugli amplificatori di antenna, che non erano a norma, quindi che loro si dovevano togliere l'amplificatore di antenna, perché se no disturbavo io e io ero in regola, perché avendo la concessione a voler fare potevo parlare col CB. E quindi combattevo dicendo no, guardate che siete voi che avete l'amplificatore di antenna, non dovete averlo perché fuori legge, quello e quell'altro, quindi venivamo a un accordo di cambiare il capo, ma poi vabbè, col vicinato mio andavamo troppo d'accordo, quindi non c'erano problemi. Sì, finché trovi le persone che capiscono, che ragionano, dicono ma con i diritti che ho io ce li ha anche lui, si dovrebbe sempre parlare in questo senso, perché non è che uno può limitare ad altre persone di non usare certe apparecchiature, visto considerato che ha tutto il diritto. Per cui, però non è sempre, tu vedi il caso ad esempio di Natalino, ha avuto una guerra continua e penso che ce l'abbia ancora. Purtroppo ha incontrato delle persone che non capiscono la situazione, nonostante che lui tra l'altro si era anche offerto di sistemare il tutto a sue spese. Ti puoi immaginare l'ignoranza tante volte delle persone è talmente alta che non c'è rimedio, e non glielo fai capire nemmeno se glielo predichi in chiesa. Vero, che ci faccio, ma allora è andata bene così. A me sinceramente sono rinato qua, perché mi sono dovuto organizzare, vabbè, mi sono sbizzarrito su alcune cose, su qualche aiutino, e insomma mi diverto così, non c'è problema, non disturba nessuno. Anzi, tempo fa il mio vicino mi ha chiamato, mi ha detto: "Ti ho sempre sentito, vabbè, quando c'è una televisione a tubo, e tu dico come sei tu, come hai detto tu, ti ho sentito alla televisione, ci avevo fatto certe risate perché c'era un film che era d'amore e tu non passo la ricatta, ma perché poi cazzavamo un bel di più prima, dai. Sì, con quel tipo di TV era facile, era, perché ripeto, erano poco filtrate. Io lo so perché ci sono stato per un certo periodo e mezzo, quando rientravo la sera dal cantiere, allora no, quando ero giovane che facevo tutt'altro mestiere, ero in laboratorio e dunque sapevo di queste lamentele, se ne sentivano tante, se ne sentivano, venivano in negozio dal radiotecnico, se lo spiegava tante volte, però poi alla fin fine qual era il problema? Il problema era che bisognava sempre avere un impianto d'antenna efficiente, senza amplificatore d'antenna, senza potenze che si utilizzavano, tutte queste belle cose, si andava d'accordo tranquilli e pacifici tutti quanti. Solo che tu sai benissimo, soprattutto in quegli anni c'era la bramosia di avere segnaloni altissimi, allora ognuno di noi, io no per la verità perché non ho mai avuto lineare, ma c'erano quelli che si compravano apposta il lineare. Mi ricordo lì in via Maginotti c'era un certo Fortebraccio, Pino Fortebraccio, aveva un lineare da 800 watt, grazie, quando schiacciava immobilizzava tutta la zona, tutta la borgata che c'era lì, non so se te lo ricordi, a Pino Fortebraccio. Quando era piccolo era rischiata quello che avevo io. Aspetta, ma è successo un'altra città, cosa aveva la barba? Pino Fortebraccio, boh, mi sembra di sì, io non ne ho conosciuto molti di vecchi cibi, perché sono arrivato nel 85 a Sassari, nel 87 ho montato l'antenna, quindi no, però l'ho sentito. Figurati, io c'avevo il DVDTL 922 col 440 comprato da Mario Montari, che avevo fatto un leasing e poi pagare il virus, Sant'Antonio mio. Aspetti, mi sta venendo in mente una cosa. Allora, se quello che stai dicendo Giulio, se non sbaglio, in via Marghinotti, ma quasi all'uscita, diciamo, ci mancavano forse 50 metri, 100 metri all'uscita per via Sorso, e lui era sulla sinistra, sulla destra, e lì c'era anche Varta, tu l'avrai conosciuta Varta, Giulio? No, non me lo ricordo se l'ho conosciuto o no, comunque hai detto bene, fino a Forte del Braccio abitava proprio lì, abitava, adesso no, adesso abita al centro di Sassari, verso via Turritana, eccetera, in quella zona. E per dirti, no, ma lui era micidiale, aveva sempre questo lineare attaccato, che era micidiale veramente. Infatti, non lo so, ha avuto diversi problemi con la gente del vicinato che bisticciava continuamente, perché giustamente non, gli altri non vedevano, lui trasmetteva ma gli altri non vedevano, è così. Sì, non è quello. E che mi ricordo io, però lui misurava con una Grand Prix, se non sbaglio, Sì, era Grand Prix, poi dopo alla fine mi ricordo che aveva anche la direttiva, basta, era un malato della potenza, e brava persona, sia ben chiaro, per carità, però per quanto riguarda quelle cose lì non ne fregava niente di nessuno, lui faceva quello che voleva e basta, ma non era giusto nemmeno. Sì, l'ho conosciuto, non te lo succedo perché io ero ragazzino, però ero già appassionato di queste cose qua, c'è la buona Marivarta, che è una mia, una carissima amica di mia madre, che modulava solo col marito quando il marito era in campagna, quindi si chiamavano nei cani bassi, se non mi sbaglio, avevano un bracchino lui e, che era Macciaguletta, presso poco più avanti di dove abita Diaboli, là, diciamo. E niente, si parlavano così, però non è che stava in frequenza lì, più che altro è stata in frequenza, Claudio, tu l'hai conosciuta, a Superpila. Sì, sì, con quella già ci ho parlato, con quella ci ho parlato. E vabbè, ma in quegli anni era così.